sono chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. E sono chiacchiere distintivo. Sono chiacchiere distintivo. Boh. Allora, prima di iniziare, due cosette. Uno che si è corrotto, l'altra volta c'era, a un certo punto è uscito, non ha funzionato, poi mi è sparito proprio la sigla di 25 O'Clock, che c'ha proprio quello che c'ha, cioè del 2002. Boh, non saprei se forse sarà un anno dopo, non mi ricordo onestamente. Però ce ne dovrei avere un'altra copia su un altro salvato al file, insomma. Nulla credo che è perso. Sicuramente ce n'è una che utilizziamo da remoto. E quindi semmai quella funzionerà. Seconda cosa, ormai iniziamo sempre più tardi, perché insomma sì, abbiamo la scaletta è gonfia, ci abbiamo tante cose da mandare, tante idee, poi quando la finiamo diciamo ah, ho dimenticato questo, ho dimenticato quello, questa settimana volevo mandare questo. Sentire una cosa fighissima di Act Bob che ci eravamo dimenticati e che volevamo riproporre, come i peperoni. Vabbè, comunque andando velocemente, perché appunto, malgrado che alla fine ci allunghiamo tantissimo eccetera eccetera, vorremmo finire comunque in un orario decente per mandarvi a nanna a voi e per andare a nanna noi altri. Allora, siete all'ascolto di Onda Rossa 87.9 della promozione di frequenza da banda romana e laziale, ma la radio si sente anche in DAB e quindi, oltre che nella provincia di Roma, potrete ascoltare il segnale di Radio Onda Rossa attraverso il Digital Audio Broadcasting. Detto anche DAB, appunto. Nelle province di Roma, Terni e Perugia. Andando sul sito www.ondarossa.info ci trovate, oltre a tutti i podcast, oltre alle modalità per sostenere Radio Onda Rossa, oltre che il palinsesto eccetera, c'è cioè con i link che poi potete andare a scaricare le trasmissioni, andare a cercare, insomma la ricerca pure c'è sul sito per parola chiave, per cui se vi ricordate qualcosa di che dovete ascoltare, andando sul motorino di ricerca, motorino piccolino, intelligenzina artificialina, insomma, però efficace per quello che deve fare. Per andare a cercare, dicevamo, andando su Ascolta la diretta, potrei ascoltare la radio in streaming da ogni parte il globo, ovunque voi siate, basta avere un terminale con accesso a internet. Ma tutto questo avviene, questa possibilità di poter ascoltare Radio Onda Rossa avviene perché siete voi che se la sostenete, cioè perché queste cose costano, hanno un prezzo, e il prezzo lo paghiamo in parte noi, appunto, con l'autofinanziamento, con le iniziative eccetera eccetera a cui partecipate, quindi ci diamo da fare, le cene, i concerti eccetera eccetera eccetera, la scarcerata che sta per uscire, ormai imminente. Che grazie al vostro contributo, che partecipate a tutte le iniziative della radio, appunto, che ho sommariamente ho elencato, ma anche sottoscrivete per Radio Onda Rossa, sottoscrizione che sempre sul sito potete andare a trovare. Noi vi ricordiamo il 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. 25 o'clock@chiocciolandorossa.info è il nostro unico contatto a cui ci potete insultare tranquillamente o mandare le vostre proposte che suonano. ondarossa@chiocciolandorossa.info per le comunicazioni via email alla redazione della radio. Poi ci stanno i social, che manco visto a di, anche perché poi si stanno pure boicottando un pochino ste cose, Facebook, Instagram. Poi rolgiamo una cosetta che abbiamo qua in radio, 0649175 questo invece ci piace, è il numero fisso, vecchia tecnica, 6 cifre, ma chi ce l'ha? Dal 1977 il telefono di Radio Onda Rossa. E noi ci ascoltiamo Curtis Ending. I'm out in the 23:16 minuti le frequenze di Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando Curtis Harding, una biografia interessante che insomma stavamo un po' sfogliando nel pomeriggio preparando le cose da mandare in onda. Una biografia interessante perché così ricorda molta molte delle caratteristiche delle vite, caratteristiche proprio degli Stati Uniti. Lui insomma gira moltissimo, mi pare che sia di Atlanta, però non ci metterei la mano sul fuoco, appunto abbiamo dato una letta così alla biografia senza soffermarsi troppo magari su questi dati che sono anche importanti. Comunque gira moltissimo, fra cui appunto anche residenze in Canada o a Seattle o in altri luoghi appunto degli States, per poi arrivare infine, ritornare ad Atlanta. Lui è della classe 1979, quindi comincia diciamo a suonare in maniera un po' più convinta intorno agli anni 2000, già 15 anni comunque, andava in giro con la madre che, appunto dicevo, ci stanno degli spunti interessanti, era una cantante, quindi lui impara a cantare il soul essenzialmente con la mamma, e la mamma andava a cantare a pagamento nelle scuole, nelle chiese di qualunque confessione. Questa cosa è piuttosto interessante, appunto si guadagnava da vivere così. E lui appresso poi comunque molla la musica sacra, diciamo, anche perché appunto questa cosa di qualunque confessione era già qualcosa di ecumenico, che poi è vicino tutto sommato a o al politeismo, all'ateismo. Vabbè, insomma, alla fine intorno a 2014 finalmente smonta tutti i gruppetti di cui aveva fatto parte, anche punk, anche delle cose un pochino più durette di questa qua, e si mette a fare appunto questa roba qui, mischiando psichedelia, soul, funky, insomma, e più ne metta, comunque impastando questo suono Motown che non ci si stanca mai di ascoltare. All right, 184. Curtis Harding, quindi. ...2025 il lavoro. Departure and Arrival. Ci siamo ascoltati la seconda traccia, Out in the Back, e poi sotto la voce nostra a seguire. Andiamo avanti, quindi. Anche loro ci ricordavano, soprattutto nelle prime produzioni, un certo tipo di suono. Motown o Atlantic di inizio anni 70. Mo si sono parecchi evoluti e soprattutto hanno fatto un sacco di quattrini. The Black Keys, lavoro del 2024, se non andiamo errati. Let's go. o a your player. Live Till I Die, undicesima traccia, Onda Rossa, 25 o'clock. Long as you got the ability. Yeah. 28 minuti primi abbiamo ascoltato dal lavoro che dovrebbe essere abbastanza recente, forse pure questo 2024-2023. Ovviamente la data l'ho cercata sulla copertina, ma lui di Icy Gal è come Ely Compass, che fanno le autoproduzioni e che la data non ci scrivono sulle copertine. E comunque abbiamo ascoltato dal suo lavoro Three Bells, Tre Campane. I hear, io ascolto, te sento. E quindi già la scorsa settimana abbiamo avuto modo di affrontare quello che è un suggerimento del fantasma che è andato in fissa per questa band. Si chiamano Kid Sebastian ed è un duo. Poi in realtà nei video, insomma, e anche nelle composizioni ci stanno anche altre comparse, non sappiamo appunto se live poi si avvalgono di altre collaborazioni. Comunque la band è composta dal musicista francese Kit Martin e dalla cantante turca Merv Edrem. Turche e francesi però che si vivono, si esibiscono, producono a Londra. La scorsa settimana abbiamo ascoltato Bull Bull Bull, questa volta è tra l'altro importante, è anche la loro veste, diciamo, che indossano quando vanno sui social, e cioè la loro musica va associata assolutamente a dei video molto particolari, molto stilosi, diciamo, con uno stile appunto che ricorda le influenze della loro musica, quindi psichedelia turca, tropicalia, jazz, europop, anche melodica italiana, insomma, o beat italiano. E appunto, se immaginate tutte le visioni relative a questi stili, potete immaginare come sono i loro video, ma invece di immaginarli, andatevi proprio a vedere. Che Sebastian Metropolis. Yeah. Quindi in rapida sequenza abbiamo ascoltato degli Mignanas, Shadow People. E poi il maestro Ennio Morricone, Il vento, il grido. Tratto dal film Joss, il professionista. E adesso andiamo ad ascoltare l'altra traccia che è, diciamo così, ascoltabile in una programmazione. Rotonda, uniforme, alternata, insomma, altrimenti facciamo una di quelle sperimentazioni notturne che comunque ci piace fare, ma poi finiamo sempre per alterare e per modificare, quindi anche per snaturare e forse seviziare i poveri artisti e artiste che producono i loro lavori e le loro creazioni musicali. Stiamo parlando di Vermilion Awards, disco pubblicato proprio quest'anno per Melinda Liberte, che è un musicista classico, insieme a David Sylvian, che crea l'atmosfera ambient sul piano di Melinda Liberte. E appunto è composto da due tracce essenzialmente il disco: Musique pour l'élever du jour e Arabesque. E poi le stesse versioni brevi, diciamo, per l'utilizzo così radiofonico, appunto, o comunque magari anche web. Ci andiamo ad ascoltare la short version di Arabesque, quindi Melinda Liberte e David Sylvian, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Forse, se magari partisse, vediamo se riusciamo a far partire il disco di qui sopra. Eccolo qua, forse, sempre forse. Thank you. niente, vabbè, le tracce del disco di Melendez Lambert e Daryl Sylvian durano 20 minuti, quindi evidentemente non riesce a gestire delle tracce così lunghe il lettore, nessuno dei due. Troveremo alternative, questa comunque me ne facciamo assaggiare un pezzetto, e la prima traccia, Musique pour le verre du jour, che dura 20 minuti, ne ascoltiamo un frammento e poi si passa al successivo Radio Onda Rossa 25 o'clock. Thank you. loro erano Joy Cut in arte, Pasquale Pezzillo alla voce, alle tastiere, alle elettroniche, chitarre, alle liriche, insomma, un po' Deus e Machina. Di Joy Cut. Gael Califano alle percussioni industriali e alle tastiere, e Matilde Benvenuti alle batterie tribali, alle tastiere. 23:59 minuti primi, abbiamo ascoltato la traccia da questo lavoro del 2021. Che si chiama The Blue Wave. Abbiamo ascoltato la traccia Sound. No, il lavoro è del 2022, ci andiamo correggendo. Composto di 4 movimenti, ognuno a sua volta poi suddiviso, quattro macro atti, e poi suddiviso in variati movimenti per un totale di 13 tracce. Dicevamo, e quando scoccano la mezzanotte, indovinate che traccia è stata ascoltata tutta questa storia per fare sto siparietto. Indovinate che traccia ci stiamo ascoltando in questo momento, perché dopo Sound in ordine viene November 13. E quindi 13 novembre, oggi chi creda a sfiga. Facesse gli atti antropopaici, che crede. Chi crede alla cabala? Invece noi crediamo che faremo pubblicità a questo flyerino che è, diciamo, pubblicato da Havana Forte Prenestino Net /meta. Andate lì, andate a cercare, quindi su questi indirizzi IP c'è pure un barcode, un QR code, anzi, come si dice, per chi è odiante della digitazione a mano. Comunque andiamo a leggere il breve testo del flyerino: se i vostri dati vengono trasformati in armi, boicottiamo Meta. Se usi Instagram o Facebook o anche WhatsApp, cioè pure lì con Cina, probabilmente perché tante altre persone sono lì. Rompiamo il circolo vizioso della massa critica, disertiamo le piattaforme di Meta. Meta collabora, dall'altra parte, Meta collabora con al genocidio, fornisce dati al sistema di sterminio automatizzato Lemander. La sua dirigenza ha forti legami con l'esercito israeliano, censura le voci contro il genocidio, finanzia e supporta la propaganda e la disinformazione sioniste, ha già collaborato al genocidio del popolo Rohingya in Myanmar nel 2017. Posso pure aggiungere, veri incoglionisce? Così magari è un po' meno, non si poteva scrivere, insomma, su un flyerino di documentazione, però pure questa qua di propaganda, antipropaganda. Però pure questa qui è abbastanza una verità, forse la più profonda di tutte. Forse un po' meno dannosa del genocidio, però insomma dei danni fa pure quella. Lasciamo Joy Cut e ripercorriamo un po' di tempo indietro, andiamo a ripescare un po' di gruppetti che abbiamo ascoltato negli ultimi lustri. Andiamo al 2011, quando uscì questo lavoro, il primo lavoro, poi ce lo siamo un po' persi di vista e sarebbe il caso di andarli a ritrovare. anche se pare abbiano un po' perduto questo percorso iniziale fatto di post e mat rock. Loro si chiamano Thank You. Il primo disco, appunto, 2011, se non andiamo errati, 2011 esatto, si chiamava Golden Worry, da cui andiamo ad ascoltare la quinta traccia, che si chiama Strange All. Thank You a Radio Onda Rossa. We'll be right back. dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa 25 o'clock, 87.9 della banda Roma nel Laziale, invece in dub da Roma, Terni, Perugia. E il web www.ondarossa.info, potete ascoltare in streaming la radio. 06491750, ricapito, telefonico. E ci siamo ascoltati dal lavoro del 2019. Juice B. Crypts. La quinta traccia, oggi è la giornata e la notte delle quinte tracce, Fort Greene Park. Lavoro dedicato, crediamo, alla mamma di John Strainer, che era deceduta proprio in quel periodo. Probabilmente la formazione, dopo essere appunto stato un super gruppo fatto di quattro elementi di grande spessore e anche con così, una grande carriera alle spalle, Dave Konopka e Tondal Blackstone se ne sono andati, sono rimasti e con... Per questo lavoro John Steiner alle batterie, e lo ricordiamo come batterista degli Helmet. E dei Tomahawk. E a Williams invece chitarra, e anche lui creatore nella storica band dei Don Caballero. Neurosis, ora, lavoro del 1999. Time of Grace, forse all'epoca era tempo di grazia, ora è tempo di guerra. Ed è per questo motivo che si devono invece alzare con grande forza le voci di pace, ma non la pace così, quella appunto. No, che c'erano gli Hare Krishna a Comiso che facevano pace e non violenza. Perché abbiamo saputo pure una cosa molto interessante proprio sulla traduzione di non violenza che viene fatta dall'indiano per quanto riguarda Gandhi. Che non era una scelta, cioè non è la non violenza perché è qualcosa di scelto, ma proprio un'incapacità di poter, una non possibilità e incapacità di poter fare violenza. Che è un concetto un po' differente, insomma, accorgersene a 60 anni. Questa storia della non violenza, insomma, era un pochettino forzata culturalmente da queste parti. Vabbè, insomma. E gli Hare Krishna dicevano a Comiso pace e non violenza, e qualcuno gli diceva pasta e fagioli. Appresso. Non è certamente quella la pace che ci interessa, sicuramente la non guerra, la non guerra degli eserciti, la non guerra di sterminio, la non guerra fatta dai proletari contro i proletari e le proletarie. Perché sono siamo noi, sono queste donne e questi uomini, gli ultimi della società, quelli che poi e quelle che andranno a farsi uccidere da altri e da altre proletarie. Nel frattempo, vi ricordate invece la guerra del 1999 e poi ancora prima in Jugoslavia e poi ancora prima in Bosnia, no? C'era pure un film, insomma, c'è stata comunque, c'è un giudice che fra le altre cose sta indagando su alcuni signorotti che non erano proletari e che andavano a fare i cecchini nella guerra in Bosnia, così, tanto per divertimento, ad ammazzare la gente. Questa è la guerra come la intendono costoro. Tanto morono gli altri. Vabbè, non me fate continuare, perché sennò veramente facciamo le 3 di mattina. Anche perché poi se sparano i missilotti, quelli con le testate, o i sommergibilini, quelli con le testate, non è che ci si può andare tanto a nascondere. Per cui sbollentate gli spiriti. Noi facciamo la lotta di classe, e la lotta di classe non prevede la guerra degli eserciti, degli imperialismi. Neurosis. Belief, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Allora, da Oakland dei Neurosis passiamo invece agli Anthrax, sempre Stati Uniti. Caught in a mosh, catturato in un poco in una mischia. We'll be right back. quando quando si finisce di trasmettere qualcosa di Godspeed You Black Emperor, così viene la voglia di chiudere ed andarsene, perché tanto insomma si può aggiungere poco. Ultimo lavoro per loro, targato 2024. Un lavoro che ha un titolo senza titolo, diciamo, che appunto si chiama No Title As of the 30 February 2024. 3400 dead. Un titolo complesso, appunto, per dire che non c'è nessun titolo in questo 13 febbraio del 2024, 28.340 morti. Il lavoro è stato pubblicato ad ottobre e ovviamente il numero dei morti era molto di più, e il numero dei morti era il body count tragico cui abbiamo assistito e assistiamo tuttora. È bene sempre ricordarlo per quanto riguarda il genocidio di Palestina, che non è sicuramente iniziato l'8 di ottobre, di settembre, quando era insomma del 2023, ma è iniziato molto prima, e non è finito con la pace teatrale di Trump e qualche leader dei paesi arabi. Non è una pace, non è manco una tregua, a dire la verità. È semplicemente spostare l'attenzione su altri fronti, cambiare le priorità, togliere dagli impicci, dalle castagne, chi è troppo piccolo per sostenere, malgrado la prepotenza e l'atteggiamento fascista e colonialista, per sostenere una guerra a tutto il mondo arabo, a tutti i popoli di quella zona. Vabbè. E ci siamo ascoltati la quinta traccia, dicevamo solo quinte tracce, che si chiama Pale Spectator Takes Photograph, pallido spettatore che scatta fotografie. Vabbè, poi questa cosa delle fotografie forse già abbiamo detto qualcosa, ne vorremmo dire altre. Sicuramente le immagini sono fondamentali per quanto riguarda una comprensione che deve essere sempre fatta, e sono normalmente molto più eloquenti delle parole, dei discorsi, insomma lasciano molto meno spazio a oziose discussioni, probabilmente ci inducono di più ad agire perché così colpiscono delle corde, colpiscono più profondamente quello che è il nostro animo, le nostre sensibilità, di tante parole che invece sviano, sottendono, nascondono. Ma a questo punto, lo diciamo da mesi, non c'è bisogno di niente, di nessuna immagine, di nessun impulso, cioè l'unica cosa che si deve fare in qualche maniera con tutte le nostre forze, con tutto il nostro coraggio, con tutta la nostra volontà, in ogni secondo della vita, facendo delle scelte ben appropriate e precise, è finire la carneficina, smettere, impedire che continui. Come fare a uscire da questi discorsi così poi cupi, se volete, e anche da queste note in sottofondo che comunque danno la giusta cornice ai pensieri cupi che ci attanagliano, cupi ma anche poi in realtà di riscossa. È così, è l'unica maniera. to sundown, got to keep working, yeah. Aspetta, non doveva partire questa, è partita desprovvista. Va bene, facciamo così quindi. È partita la sprovvista mentre noi ci perdevamo nel lunghissimo catalogo di DJ Kicks. Etichetta Artworks, sotto il quale hanno inciso un gran numero di DJ essenzialmente, di producer. On time, cause the girl got rhythm to her with no complications. I'll give her information about a certain location under Pantheon Station. Cause when I host my show, I avoid the girl called Lola, who's more popular than a drink they call it Coca-Cola. Put down the mouth, respect, disposing faces shady in black. It's dominating as my color, the massive attack. Right now I hit it, kick it, flow smooth, hit little wicked. I take a small step, now it's a chance stride. People... Per la precisione, ci è capitato sotto mano un vinile che presto vi faremo ascoltare in forma vinile. Peggy Goo, marchiato 28 giugno 2019, punto esclamativo K7382, numero di catalogo. While bunch crew at large, don't call me an officer, just call me a sarge. Mashing up the country town and also abroad. Plan to go to America when I get a visa card. E a proposito di mix e remix, questa è la versione remixata per Massive Attack di Five Man Army. Table then I graduate to studio one. Cause these my nom de plume, you know the three's my pseudonym. And around my neck you know I wear the Sony Budokan. Con questo vuol dire che 25 o'clock, quando è l'1 e 0, 2 minuti, vi sta lasciando. Vi lasciamo quindi dopo la, appunto, Next Stop dei Fat Freddy's Drop, anche quello vinile che vi stiamo facendo ascoltare in forma digitale, perché insomma è difficile mandare i vinili in questo momento. Vabbè, dicevamo che quindi dopo Fatta Fra This Drop la sigla ce ne andiamo, quindi dateci un 7-8 minuti ancora. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica I Muse. Domattina si riprende in diretta con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina, fino alle 12.40 quando c'è la replica d'impatto, e poi 13.45 circa tutta scena cinema, dalle 15.16 disabilità punti di vista, la trasmissione appunto che tratta i temi della disabilità. Da ogni lato, ogni punto di vista. Dalle 17 alle 18 La Schiena del Sol, poi dalle 20 alle 21 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri, alle 21.30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa. 21.45 Il Grande Fagiolino, Notti Bus Panis, alle 23 E I Rotti, chiudono I Cuginetti da Di Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, gravidanza, similari e semiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi e tutto quanto. Quello che concerne l'argomento della repressione, che si accanisce sempre di più contro le classi non abbienti, noi ce ne andiamo sotto la nona comunista, non prima però appunto di aver ascoltato Next Stop dei Fat Freddy's Drop. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, dai. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. No, we never get tired of this. No, we never get tired. No, we never get tired of this. No, we never get tired. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. No, we never get tired of this. No, we never get tired. No, we never get tired of this. No, we never get tired. Walk through the fire, been through hell. Body was tired, but the spirits won't fail. Keep shining light at Northern Star. out to the Dawn Patrol. Red face drop in the area, you know we got soul. Rise up to the sun, cause it's a scorcher. We innovate and demonstrate and cultivate the soil. The mind is on the gun, so I will bring the pot to boil. Pour for many years and broken out the good oil. Flying out the water and we're up on the floor. From the Hummer Highway when the job is never really done, son. Bring it all together so that we become the one, son. Pushing it all forward and creating the space. Now come on everybody, let's rock this place. The NPC or 101 or even Stratocaster. And whatever kid we're touching, you know we're gonna be the master. The Toastmaster, fan the world, the broadcaster. The ringmaster, since the days of all master. Rock hard from Rock City to Roundhouse. Everywhere we go, you know we turn the party out. Spreading the vibration and increasing the peace. Stopping all the madness, calling for the fighter seas. Had enough of all this trouble, so I'm gonna sing it sweet. Had enough of all this trouble, so I'm gonna sing it sweet. Singing da da da da da da da da. Singing la da da da da da da da da. Singing la da da da da da da da. Singing la da da da da da da da da da da da. The people will stand up, the crowd will pump their fists, and we'll never get tired of this. Tired of this, yeah, the people will stand up, the crowd will pump their fists, and we'll never get tired of this, tired of this. share our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.